Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Abbiamo imparato a conoscere, non senza qualche doloretto, il fenomeno della delocalizzazione, con le attività produttive che inseguono il costo più basso del lavoro, migrando anche più volte da un paese all'altro. Allora ci siamo fatti una domanda: e se prendesse piede un altro tipo di delocalizzazione, che insegue invece il costo dell'energia? Beh, intendiamoci, qui non ci interessa analizzare il caso in cui si cerchi il costo dell'energia elettrica o del gas più bassi, perché questo è chiaramente un fenomeno già in atto. Ci interessa invece capire se è ipotizzabile che varie attività vadano in futuro a localizzarsi a seconda delle proprie necessità energetiche dove l'ambiente presenta condizioni favorevoli. Per esempio nei deserti se serve molto calore, oppure nell'estremo nord o sud se serve molto freddo. Parliamo di ciò a partire da un caso nostrano, il nuovo centro di calcolo della BT di Settimo Milanese, che in un certo senso ha seguito questa logica. Ed è con noi per parlarne Andrea Marini, responsabile infrastrutture e data center di BT. Buonasera Marini. Buonasera a voi. Allora, abbiamo già spiegato in passato qui a Mr. Kilowatt più o meno quali sono i consumi prevalenti di un centro di calcolo. E ce li vuole però ricordare? Sì, certo. Beh, diciamo che, usando una metafora, il centro di calcolo, comunque il data center in generale, è una sorta di centro benessere per computer. Quindi sì, noi sostanzialmente li teniamo qui, li coccoliamo, sì, li proteggiamo e soprattutto li alimentiamo elettricamente. Li alimentiamo in modo tale che essi possano funzionare al meglio. Una delle caratteristiche fondamentali di questi centri è che viene trasformata, diciamo così, questa energia elettrica in alimentazione tutta completamente in calore. E quindi, diciamo, il nostro problema fondamentale è quello di garantire il buon funzionamento di computer continuamente raffreddandoli e quindi garantendo le condizioni climatiche che servono per il perfetto funzionamento. Per quanto riguarda le componenti energetiche, quindi abbiamo quella ovviamente di alimentazione dei computer, il cui efficientamento è nelle mani soprattutto delle grandi aziende che li producono e anche in chi produce software e quindi efficienta il processo proprio di utilizzo di queste macchine, ma anche e soprattutto per quanto ci riguarda l'efficienza di produrre energia frigorifera che serve poi a raffreddare questi apparati utilizzando il meno possibile energia elettrica per produrla. Ecco, tanto per dare un'idea agli ascoltatori, di quanti server stiamo parlando e quanto costa raffreddarli? Beh, qui diciamo che più che il numero di server, perché poi oltre ai server ci sono tutta una serie di apparecchiature come le aperture di rete, lo storage, quindi anche tutta una serie di apparati a contorno dei server che consumano poi utilizzano energia. Diciamo che complessivamente qui stiamo parlando di 2,5 megawatt di energia dedicata ai server. Di questi 2,5 megawatt ce ne servirebbe nei sistemi tradizionali circa un terzo per quanto riguarda il raffreddamento. E quindi se uno utilizza 2,4 megawatt, 800 kilowatt servirebbero per generare potenza frigorifera per il raffreddamento di questi 2,4 megawatt. Quanto viene la bolletta alla fine dell'anno per il raffreddamento? Diciamo che in questo momento noi siamo intorno ai 500.000 euro al mese. Ah, però, di raffreddamento? No, complessivamente. Complessivi, d'accordo. Diciamo che poi una parte è dedicata al raffreddamento. Quindi, insomma, il vostro problema fondamentale da un punto di vista energetico è il raffreddamento. Voi come avete pensato di risolverlo? Ma diciamo che noi qui abbiamo sfruttato proprio quello che la natura ci metteva a disposizione. Sostanzialmente utilizziamo l'acqua del sottosuolo, prelevata dal sottosuolo, per il raffreddamento estivo dei computer. E quindi utilizziamo quest'acqua che preleviamo, incameriamo in vasconi e poi utilizziamo pompando quest'acqua all'interno di circuiti idraulici che passano attraverso le macchine di condizionamento che trattano l'aria calda proveniente dalle sali dei un computer. Po' come funziona il raffreddamento del motore con liquido refrigerante, sì, quello di un'automobile. Esattamente. E di notte? E invece, più di notte, più che altro d'inverno, quando le temperature esterne lo consentono, quindi in alcuni mesi dell'anno, chiaramente noi siamo nel milanese, quindi diciamo per 5 mesi all'anno più o meno, riusciamo a raffreddare direttamente con l'aria fredda esterna, quindi ventilando quest'aria fredda sul circuito idraulico che appunto raffredda e tratta l'aria calda dei computer. Quindi voi avete un sistema di raffreddamento che non usa un ciclo frigorifero praticamente, no, cioè voi pompate o aria fredda o acqua fresca, diciamo, e tenete così belli freschi i vostri calcolatori. Esattamente. Ecco, senta, proviamo a fare un salto in avanti. Lei cosa ne pensa? pensa per esempio della possibilità che un domani centri di calcolo sorgano per esempio in Groenlandia oppure in Siberia, insomma dove fa molto freddo. Le sembra uno scenario possibile? Beh, diciamo che questo spinge molto avanti il concetto, nel senso che bisogna anche pensare ad andare in luoghi dove poi esiste anche la possibilità di comunicare, perché è importantissima per questi centri la possibilità di comunicare, quindi la presenza di linee di comunicazione, e ci sia anche possibilità di avere delle capacità di gestione. Quindi andare in Groenlandia chiaramente potrebbe essere estremo, però in Svezia sì, insomma, però, oppure in Svezia sì, esatto, in Islanda, ad esempio, sì, posti comunque del nord Europa dove grossi centri, soprattutto in un'ottica che è più remota, che è quella della virtualizzazione, quindi della creazione di grossi centri da cui attingere risorse informatiche per le aziende che poi li utilizzeranno, sicuramente ottenere la massima efficienza portando queste installazioni in luoghi dove lo sfruttamento delle risorse naturali può essere, ad esempio per l'aria fredda, tutto l'anno, aiuterebbe tantissimo, quindi ridurrebbe ulteriormente i consumi legati al raffreddamento dei computer. Va bene, grazie Marini. Grazie a voi. Questo è tutto, l'appuntamento è per domani alla stessa ora. Parleremo di fotovoltaico a concentrazione, una soluzione su cui si appuntano molte speranze. Buonasera, a domani.